GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Terrorismo. Il ministro dell'interno Piantedosi riferirà al comitato parlamentare Schengen sulla ripresa dei controlli ai confini con la Slovenia. L'ipotesi ha preannunciato è di protrarli anche d'inverno. Confindustria, il PIL del Friuli Venezia Giulia cresce ma meno del previsto. Nel 2023 si calcola un più 0,8% contro l'1,1 stimato tre mesi fa. Aperta una sola corsia del raccordo autostradale sul Carso Triestino in direzione Venezia all'altezza di Duino per l'incendio di un camion. Foibe ampi da prefetture, la circolare a sindaci e scuole è faziosa e strumentale. L'associazione Partigiani chiede che venga ritirata. 1-1 con il Lecce, vittoria ancora rimandata per l'Udinese che è ora terz'ultimo in classifica. Nel pomeriggio la Triestina in trasferta affronta il Legnago. Ancora buongiorno, ben ritrovati da Lara Zani e Francesca Vigori. In primo piano il ripristino dei controlli ai valichi con la Slovenia a seguito della crisi mediorientale e il rischio di infiltrazione di terroristi in Europa. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi presenterà questo pomeriggio un'informativa sul ripristino temporaneo dei controlli al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. L'audizione si svolgerà alle 15.30 a Palazzo Mancuso e sarà trasmessa in diretta web TV. In un'intervista al Piccolo, il ministro ha affermato che il provvedimento di sospensione del trattato di Schengen durerà solo finché sarà opportuna, secondo l'evoluzione dello scenario internazionale, e che la volontà del governo, di cui si discuterà al vertice a Trieste il 2 novembre con Slovenia e Croazia, è minimizzare l'impatto della misura sui frontalieri e in generale su tutti i cittadini dei nostri paesi, ma ha specificato che sicuramente non basterà un'attuazione limitata ai primi 10 giorni dei controlli. Anzi, è molto probabile che il provvedimento venga prorogato per l'inverno. Oltre al fattore sicurezza, detto Piantedosi, il fine dei controlli è anche arginare gli arrivi dei migranti lungo la rotta balcanica. Quest'anno risultano arrivati oltre 16.000 migranti irregolari dal confine est, non sempre muniti del diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia. In vista dell'inverno, il sindaco di Gradisca di Sonzo, Linda Tomasinsice, e i rappresentanti di alcuni gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, chiedono che venga disposta una drastica riduzione della presenza dei richiedenti asilo sul territorio, riportandola entro il limite di 200 ospiti, che venga presa senza indugio in carico la gestione di coloro che sono temporaneamente ospitati nel dormitorio di San Valeriano e che venga garantito un significativo rafforzamento del controllo del territorio attraverso il potenziamento del personale di polizia. Lo faranno con un presidio davanti alla prefettura di Gorizia questo pomeriggio alle 17, al quale prenderanno parte assieme al primo cittadino consiglieri e rappresentanti dei gruppi di PD, Borghi per la Fortezza, Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea, Cittadini per Gradisca, Gradisca che verrà Gerometta sindaco e gruppo misto. È ripresa in consiglio regionale la discussione sull'assestamento di bilancio autunnale. L'esame della manovra proseguirà oggi a oltranza. Tra la manovra estiva e quella autunnale si parla di 1,5 miliardi di euro, mai visti tanti soldi a disposizione. L'unica cosa sulla quale maggioranza e opposizione concordano, a divergere invece, sono le posizioni sulla destinazione di questi soldi. Seconda giornata di voto in Consiglio regionale per l'assestamento autunnale da 337 milioni di euro. La mattina è iniziata con l'approvazione dell'articolo 4 relativo alla difesa dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. L'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro ha puntato sui 3 milioni di euro destinati a rispondere all'esigenza di rottamare vecchie stufe e ristrutturare camini. Dal 2024 i cittadini potranno richiedere un contributo da 1.000 a 4.000 euro, soldi che sono cumulabili ai contributi nazionali. Abbiamo dimostrato di essere sensibili all'ecologia con i fatti, ha dichiarato Alessandro Basso, consigliere di Fratelli d'Italia, che parla anche delle tante risorse messe a disposizione per gli impianti fotovoltaici. Bisognava dare più attenzione, dice Carli, consigliere PD, soprattutto ai comuni di fascia C, cioè i comuni di montagna più disagiati, vicini al confine ma non a ridosso del confine. 14 gli articoli complessivi che verranno votati in questi 2 giorni, i primi 3 approvati ieri, oggi finora approvato come detto il 4 e anche il 10 su patrimonio e demanio. Approvata dunque l'acquisizione di Casa Zigaina a Cervignano per 850.000 euro. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Peggiorano le stime di crescita del Friuli Venezia Giulia per i prossimi mesi, a dirlo l'ultima analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia. L'andamento del PIL regionale a ottobre viene rivisto al ribasso da Confindustria Udine dello 0,8% nel 2023 e dello 0,6% nel 2024, 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di tre mesi fa, un dato in linea con le stime per l'area nord-est e di poco sopra quelle nazionali che si fermano allo 0,7% quest'anno e allo 0,4% il prossimo. Il peggioramento è dovuto all'indebolimento della domanda estera, perno dell'economia regionale, ma anche alla risalita dei prezzi di petrolio e gas e a condizioni di accesso al credito più rigide. Per i prossimi mesi si prevede un indebolimento del comparto industriale e un calo degli investimenti dell'edilizia, in decelerazione anche i servizi. Il caro prezzi frenerà i consumi delle famiglie, previsti crescere solo dell'1,3% nel 2023 e dello 0,7% nel 2024, nonostante l'inflazione sia stimata in progressiva riduzione. Previste ricadute negative anche dalla stretta creditizia. Spicca un dato su tutti: i prestiti alle imprese a giugno sono scesi in Italia del 3,4% annuo e in Friuli Venezia Giulia dell'11,8%, peggior dato fra le regioni italiane. Tiene ancora l'occupazione, che per ultima risentirà gli effetti del peggioramento. Si incrementerebbe dello 0,4% quest'anno e dello 0,5% il prossimo, mentre il tasso di disoccupazione è previsto in ulteriore calo, passando dal 5,4% del 2022 al 4,7% del 2023, contro il 6,2% del pre-pandemia. Lo scenario rimane incerto e soggetto a rischi, soprattutto di matrice internazionale. Per il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, a fronte di una previsione di raffreddamento dell'economia per i prossimi due anni, la competitività, punto di forza del sistema Friuli Venezia Giulia, va mantenuta con investimenti e innovazione. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Raccordo autostradale sul Carso Triesino chiuso da prima della mezzanotte scorsa fra Sgonico e Sistiana in direzione Venezia a causa dell'incendio di un auto articolato che trasportava legname. Sul posto i vigili del fuoco che hanno trovato la parte posteriore del semirimorchio avvolta dalle fiamme, mentre la motrice era già stata sganciata dall'autista. Quest'ultimo, che aveva respirato del fumo, è stato precauzionalmente condotto all'ospedale di Monfalcone per controlli. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare che il fuoco avvolgesse l'intero carico. Successivamente, con l'ausilio di un escavatore, hanno iniziato le operazioni di smassamento e bonifica del carico incendiato, che sono proseguite in mattinata. Ancora chiusa la corsia interessata dall'incendio. Sul posto anche polizia stradale e personale della società concessionaria dell'arteria. Grazie all'azione tempestiva del Ministero dell'Interno a Udine sono immediatamente in arrivo 10 unità in più di polizia che opereranno da subito per cercare di garantire la legalità e la tranquillità dei cittadini e dei commercianti. Lo annuncia in una nota Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Lavoro della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. È un segnale, osserva, che servirà anche da deterrenza. Vedremo come andranno le cose nei prossimi mesi. A Udine servivano risposte immediate e noi le stiamo dando. Le persone devono sentirsi libere a ogni ora di condurre una vita tranquilla e il governo è al loro fianco contro la criminalità. Ringrazio ancora i consiglieri di opposizione che ci hanno prontamente sollecitato sul tema. Abbiamo uno sguardo al meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, le temperature a Trieste 20 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 16, a Tarvisio 13, a Tolmezzo 12, a Piancavallo 11 gradi, a Sappada 8, a Forni di Sopra 7, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 8 gradi, a Lignano e Grado 21. E vediamo le previsioni dell'ARPA per oggi pomeriggio. Sulla zona occidentale e sulla costa saranno probabili piogge intermittenti, da moderate ad abbondanti. Sulla zona montana e sulla fascia centro-orientale della regione piogge intense, più continue e anche temporalesche. Probabili piogge molto intense sulle Prealpi Giulie e non si escludono forti piogge stazionarie anche dalla pianura udinese alla fascia collinare orientale. Sulla costa soffierà vento da sud moderato o sostenuto che girerà a libeccio in serata, vento da sud-ovest sostenuto in quota sulla zona montana, possibili mareggiate sulle coste esposte tra Lignano e Grado. E sulla base delle previsioni la Protezione Civile ha emesso dunque una nuova allerta gialla fino a mezzogiorno di domani per possibile rischio idrogeologico per le forti piogge, e domani al mattino sarà possibile acqua alta sulla costa. Il cardinale Walter Kasper, teologo tedesco, grande lettore di Papa Bergoglio, era questa mattina a Trieste per la presentazione del libro Patria e Umanità, silloge di testi scritti in suo onore. Sentiamo le sue riflessioni sui fronti di crisi in Europa e in Medio Oriente. Patria e umanità, due concetti che nella storia sono troppe volte entrati in conflitto, due parole mai così citate come in questi giorni, quando la culla delle religioni monoteiste si sta trasformando in una polveriera pronta ad esplodere. Intorno a queste due parole ruota il libro curato anche dal professor Antonio Russo dell'Università di Trieste, 26 interventi che si ispirano a quanto detto e scritto da un grande teologo, Walter Kasper. Papa ha cominciato a fare anche un po' di fiducia e amicizia con i musulmani moderati, con gli altri non si può parlare, musulmani soprattutto con i sunniti in Egitto, ma adesso sempre tutto è in dissoluzione dopo questo attacco della Hamas, ma anche i musulmani moderati non possono parlare pubblicamente, hanno paura di parlare e pertanto c'è silenzio, ma io non so come risolvere questa cosa. Si vuole, ognuno di noi deve fare ciò che si può fare sul posto e anche stimare, parlare con questa gente che vive anche fra di noi, dire riconosciamo la vostra dignità e la vostra religione, non vogliamo fare proselitismo o qualcosa, ma si deve cominciare localmente fra di noi. Nessuno di noi può fare grande influsso nella politica mondiale, si deve anche pregare per questa pace. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste ha conferito la laurea magistrale ad honorem in biotecnologie mediche al professor Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena e figura di spicco a livello internazionale nell'ambito della ricerca e dello sviluppo delle nuove generazioni di vaccini. Un riconoscimento allo straordinario e innovativo ruolo che il professore ha svolto nella messa a punto di nuove tecniche di produzione dei vaccini, sapendo coniugare ricerca di altissimo livello e impresa. Recita così la motivazione della laurea magistrale ad honorem in biotecnologie mediche che l'Università di Trieste ha conferito a Rino Rappuoli, uno dei più importanti scienziati al mondo nel campo dei vaccini, oggi direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena. Da sempre impegnato per sviluppare le biotecnologie mediche nei paesi poveri, Rappuoli ha sviluppato numerosi vaccini innovativi, come quelli per la pertosse, l'influenza, il meningococco C e il meningococco B, utilizzando anche la tecnica dell'RNA, quella che ha portato a realizzare in tempi brevissimi i vaccini anti-Covid e che presto potrebbe portare nuovi enormi benefici. Rino Rappuoli. Abbiamo sviluppato questa tecnologia non per la pandemia, ma perché volevamo usare una tecnologia nuova, rivoluzionaria, per fare altri vaccini, per fare tante altre interventi in medicina, non solo vaccini. Poi è arrivata la pandemia, la tecnologia era abbastanza pronta. Con la pandemia sono andati miliardi di persone, quindi sappiamo che sono sicuri e sono pronti per essere usati per tante altre cose. Uno di questi sono i tumori. Perché i tumori? Perché i tumori bisogna essere veloci e non c'è altra tecnologia per fare vaccini che sia così veloce come l'RNA. Il conferimento della laurea a Rappuoli faceva parte del programma del Graduation Day dell'Ateneo Triestino, in cui sono stati proclamati 129 nuovi dottori di ricerca. Il rettore Roberto Di Lenarda. Associare una figura di scienziato che nella sua vita ha percorso moltissimi ambiti della ricerca scientifica, credo che sia il miglior segnale che diamo per far capire ai nostri ragazzi come l'impegno, la ricerca, lo studio possa portare a risultati straordinari. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comitato Novo Via scrive a Gennaro San Giuliano per segnalare quanto detto dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che domani sarà a Roma per chiedere al ministro della Cultura un aiuto nel procedimento per la Cabinovia. Le esternazioni fatte dal primo cittadino in una trasmissione televisiva dove si permette di invocare il ministro competente per mettere in riga i suoi uffici, che hanno espresso un parere a lui non gradito, è significativo della deriva autoritaria di questa amministrazione, attacca William Stark, coordinatore del comitato, che ha voluto esprimere solidarietà ai dirigenti del ministero e della soprintendenza locale per il lavoro che stanno facendo. Il comitato evidenzia poi come alcuni dei protagonisti delle istruttorie avviate sui procedimenti volti a completare l'iter autorizzato delle fasi processuali, in particolare quelli che avevano seguito fin dall'inizio il divenire dell'opera ed evidenziato le criticità e le carenze delle stesse esprimendo pareri non favorevoli, non sono stati confermati ai loro posti al momento di rinnovo degli incarichi. Faziosa e strumentale, venga ritirata. Così l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, definisce la circolare delle prefetture ai sindaci e alle scuole sulle foibe. In una recente circolare delle prefetture, spiega AMPI, si sollecitano tutte le scuole a dare vita a iniziative per diffondere la conoscenza della spirale di violenza che esplose all'indomani della firma dell'armistizio e che per i successivi 4 anni si scatenò su molti italiani inermi e incolpevoli, residenti nei territori ad est di Trieste, con durissime e atroci rappresaglie dai contorni di una vera e propria pulizia etnica. Per AMPI queste sollecitazioni rappresentano una gravissima forzatura della verità storica, delle leggi vigenti e della stessa autonomia scolastica. Secondo l'Associazione Nazionale Partigiani non è vero che le foibe riguardarono solo gli italiani, che pure furono i più colpiti, e non è vero che si trattò di pulizia etnica. La circolare, inoltre, dice ancora l'AMPI, ignora colpevolmente e consapevolmente la più complessa vicenda del confine orientale. Si ignora cioè l'aggressione italiana alla Jugoslavia del 6 aprile 1941, la repressione bestiale della resistenza locale a tale invasione da parte dei comandi militari italiani, le stragi dei civili, in particolare sloveni, le colpe dei criminali di guerra italiani, il ruolo dei partigiani per la liberazione dell'Italia dall'invasore nazista, il lager triestino della risiera di San Sabba, i crimini della X-Mas sul confine orientale, della decima Mas sul confine orientale, i campi di concentramento fascisti in Italia, a Gonarsi e Visco, dove erano internati croati e sloveni. Così facendo e così ignorando si deforma la storia, affermano. Sono in corso a Udine le riprese del film Campo di battaglia del regista Gianni Amelio, ambientato durante la guerra, la Grande Guerra. Questa mattina centinaia di comparse in scena per il transito di mezzi militari d'epoca che con partenza da Piazzetta San Cristoforo hanno percorso Riva Bartolini, Piazzetta Marconi e Via Sarpi. Nel pomeriggio i convogli storici si sposteranno in Piazza Libertà, via Rialto, via Cavour e via Lionello per le scene degli spostamenti del convoglio militare. Amelio ha spiegato che la storia del film è un'amicizia tra i due personaggi principali, messa in crisi dall'avvento della guerra. Ancora ignoti i due protagonisti, che potrebbero recitare venerdì 27, quando le riprese si sposteranno nel bar Contarena, che riaprirà per l'occasione per consentire alcune scene. Anche a Trieste limitazione alla viabilità per le riprese della Fiction Rai Libera. La conclusione delle riprese è prevista per il 31 ottobre, la durata sarà di una giornata prorogabile a 2. E l'istituzione stabilita dunque l'istituzione del divieto di sosta è fermata in via del Broletto tra via dell'Industria e via Dalviano e la sospensione temporanea della circolazione con la modalità stop and go dalle 13 alle 17. 4 lavoratori con esperienze anche ventennali in esubero, dopo che alla fine di settembre si è conclusa con un verbale di mancato accordo la procedura di cambio appalto tra Altea Italia S.p.A. e Home Care Solution S.r.l. dei servizi integrati per la gestione della manutenzione delle apparecchiature sanitarie di proprietà di Asugi. Lo denuncia l'Unione Sindacale di Base di Trieste, spiegando di non poter ritenere adempiute le salvaguardie previste dalla clausola sociale, dal momento che la società subentrante ha immediatamente comunicato di non essere disposta ad assumere tutti i lavoratori con questo passaggio. Ai lavoratori è stato proposto un trasferimento in altre sedi, socialmente ed economicamente insostenibile. Per USB è impossibile accettare questa condizione come assolvimento dello spirito della clausola sociale, ma anche semplicemente sotto il profilo di etica del lavoro. La folta presenza di cervi in Friuli Venezia Giulia sembra rappresentare un pericolo sulle strade, avrebbe dimostrato un incidente di domenica in A28. Nell'immaginario collettivo il cervo era uno dei re della montagna, animale austero e maestoso, fama che si sta corrompendo negli ultimi tempi dopo il suo dilagare in pianura, dove crea danni alle coltivazioni e soprattutto causa incidenti stradali gravi, un morto giorni fa in Veneto, tragedia sfiorata domenica nel Pordenonese. La specie è in tumultuosa espansione, nel 2022 in regione ne erano stati censiti oltre 15.000, per la maggior parte in area montana. Di questi però oltre 250 sono già scesi in area planiziale. Gli abbattimenti previsti dai piani faunistici non riescono a contenere i numeri. Sempre nel 2022 ne erano stati prelevati 1923, tra questi una settantina in pianura, dove è stata introdotta la prassi della rimozione. Dario Colombi, del Servizio Caccia e Pesca della Regione. Il cervo è diventato un problema perché la sua naturale diffusione ha fatto incrementare il numero degli individui e anche la diffusione sul territorio. Nella zona di pianura è in atto la rimozione del cervo, cosa vuol dire? Vuol dire che il prelievo si può effettuare senza il calcolo dei censimenti, quindi è un atto, diciamo, che tende a diminuire il più possibile la presenza dell'animale sul territorio. In fatto di incidenti il cervo è secondo solo al capriolo, numericamente presente in regione con 28.000 capi, e sopravanza il cinghiale. Le denunce di sinistra arrivate in regione lo scorso anno riportano 717 incidenti con caprioli, 188 con cervi e 133 con cinghiali. Solo i risarcimenti relativi al cervo ammontano a 408.000 euro. Si cerca di arginare questo pericolo con dissuasori e una migliore visibilità lungo le strade maggiormente frequentate, soprattutto nella pedemontana pordenonese e in Carso. Le recinzioni lungo le autostrade servono, ma non bastano. Un cervo adulto salta senza difficoltà ostacoli da 1,5 metri. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. I cosiddetti nativi digitali o appartenenti alla generazione Z hanno fatto del loro smartphone un compagno insostituibile. Lo usano per stringere relazioni amicali o sentimentali, con la conseguenza di perdere interesse nelle relazioni reali. La conoscenza dei rischi connessi alle nuove forme di dipendenza comportamentale aiuta a suggerire strategie di prevenzione e, nei casi estremi, di cura delle patologie correlate. Ne parlerà alle 17 a Trieste, alla Biblioteca Statale di Largo Papa Giovanni, lo psichiatra Maurizio De Vanna, che ci ha anticipato alcuni contenuti. Per dipendenza noi intendiamo l'assunzione di sostanze oppure la ripetizione di comportamenti come, non so, lo shopping compulsivo, il gioco d'azzardo, e il gioco su internet, sono dipendenze che una volta si pensava fossero dovute soltanto alle droghe, adesso invece si parla anche di dipendenze di comportamento. E questi con dipendenza del comportamento, soprattutto quelle legate ai social media e agli smartphone, ai cellulari, queste riguardano soprattutto i nativi digitali. Noi distinguiamo i nativi digitali, che sono quelli della generazione Z, dai immigrati digitali. Si tratta di bambini, ragazzi, adolescenti che hanno sempre avuto una tablet, un cellulare, uno screen in mano. L'adolescente di oggi socializza quasi esclusivamente attraverso i social media. Questa è tra i 10 e i 20 anni, soprattutto è l'età del neurosviluppo, in cui sarebbe molto importante invece che ci fossero delle relazioni basate sulla fisicità. È stata fatta un'indagine da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, soprattutto ragazzi tra i 13 e i 18 anni, circa 1,5 milioni di queste persone sono interessate da dipendenza da cibo, ma un buon 500.000, 500.000 di persone invece sono già dipendenti da questi social media. A Trieste da oggi Mauro Kovacic ritorna alla Sala Bartoli del Rossetti con Svevo a cura di Franco Però. Il primo appuntamento questa sera alle 19.30, ne abbiamo parlato con lui. Dico delle cose che forse diciamo, non tutti sanno, cioè ad esempio che Svevo è stata una persona molto sfortunata dal punto di vista letterario e ha avuto fortuna soltanto 2 o 3 anni dalla morte. Noi pensiamo a Svevo come a un grandissimo scrittore, come è ovviamente un genio della letteratura, ma nello stesso tempo a lungo è stato una specie di scrittore della domenica, che ha visto riconosciuti i suoi straordinari meriti letterari nel 25-26, o il muore nel 28, quindi già questo è un angolo di visuale credo inedito, ecco, comunque inaspettato. In più si parla di uno Svevo che è tutt'altro che inetto, spesso lo si associa al suo personaggio, personaggio che lo ha reso famoso, insomma, no? La figura dell'inetto, a Zeno Cosini, ma lo Svevo al contrario era un facoltoso uomo d'affari, era un capitano d'industria, uno che prendeva delle decisioni importanti, quindi c'è anche questo lato di una persona molto estroversa, esuberante, che cozza un po' con l'immaginario collettivo, ecco. E poi un ruolo fondamentale è anche quello di Trieste, che è la città di Svevo ed è anche la sua città. Trieste a tutti gli effetti ha trovato in Svevo un lato, no, della sua rappresentazione, che è quello della Trieste nevrotica, borghese, legata alla psicoanalisi, legata agli ambienti anche appunto così prettamente letterari. Poi c'è un'altra Trieste che è anche la Trieste levantina, che è anche la Trieste vitale, gioiosa, vitalista, ad esempio, che diciamo è l'altro lato. Trieste è il frutto di una fusione magica di due universi culturali, quello slavo continentale che diciamo entra da nord-est e porta dentro i russi, i tedeschi, gli austriaci, ma anche i praghesi, ad esempio, è un lato invece latino-mediterraneo che entra da sud-ovest e porta dentro il caldo del lato marino, levantino della città, che tanta parte ha tra l'altro nel temperamento dei triestini. I due aspetti della città trovano una loro espressione nell'arcoscienza di Zeno. Lo sport, il calcio, 1-1 con il Lecce, vittoria ancora rimandata per l'Udinese che ora è terzultima in classifica. In Serie C la Triestina gioca stasera alle 18:30 contro il Legnago in trasferta. È tutto da Lara Zani e Francesca Vigori, Mauro Cuminca ha curato la parte tecnica, Laura Sarasini che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.